ad alta voce. Patrizia Zappa Mulas legge I padri lontani di Marina Jarr. Seconda puntata. Mia madre cita le mie stupide malattie come il rosario delle sue sofferenze. Si angoscia quando mi ammalo e sta a casa a curarmi. Mentre mi avvio verso la convalescenza, ogni misurazione di febbre è un momento critico. Una volta il termometro segna ancora 37,5 invece che 36,8 e lei si arrabbia talmente che lo butta per aria, o butta per aria qualcos'altro che non ricordo. Che cosa hai fatto? Ti sei alzata per andare alla finestra? Non hai messo le pantofole? Hai saltato sul letto? Ho paura di lei. Ma la compatisco, ha ragione, le tocca stare a casa a curarmi, mentre invece ha tanto lavoro all'università. Io però sono assai contenta di ammalarmi, proprio perché le tocca stare a casa per curarmi. Se si eccettuano i bendaggi gialli appiccicatici del mal di gola e il cucchiaino del dottore, tutto il cerimoniale delle malattie mi piace moltissimo. La minestrina pallida nel piatto sul vassoio. Tutto per me il vassoio, con la tovaglietta pulita e, manco a dirlo, il sapore degli sciroppi. Mia madre mi lava accuratamente ogni mattina e mi spolvera di borotalco avvolta nel profumo dei miei lavacri. Sto coricata sotto le coperte e guardo il sole sulla tappezzeria. Anche lui, tutto mio, nel suo quadratino di luce sulla parete. Sono al riparo da ogni insidia, posso riposare dalle fatiche della difesa quotidiana. Sono raggomitolata come un ragno al centro della mia vita, a tessermi tutto intorno una tela di protezione. Non posso mai lasciare il mio posto e dipendo da me senza che mi sia lecito un attimo di distrazione. Si tratta di abbandonare il meno possibile di me stessa nelle mani degli altri, che cercano di distruggermi lembo a lembo con le loro domande, con le loro risate. Ti piace pattinare? Ti piace andare all'asilo? Ti piace la cioccolata? Oppure di questo, di quello, che cosa dice la signora? Qualunque cosa dica, ridono. Inutili gli sforzi di mia madre e del nonno per farmi dire merci, mentre il nonno mi porgeva un grappolo d'uva nel giardino di Torre Pellice sotto il nocciolo. Il nonno era stranamente in vestaglia, era già molto malato e passava gran parte della giornata a letto. Quel pomeriggio era andato a passi lentissimi nel prato a cogliere l'uva, ora la teneva in mano con i bei chicchi dorati, ma io non riuscivo ad aprire bocca. Il nonno strinse le labbra, impaziente e deluso. Pochi mesi dopo siamo di nuovo a Riga e un mattino la governante ci conduce nella stanza della mamma. Lei sta seduta nel letto in sottoveste, le braccia nude, e piange arrinciando il naso. È morto il nonno in Italia. Anche questa volta tacqui per prudenza, certo, per non compromettermi, ma ero pure stupita. Non avevo mai visto piangere mia madre e non capivo perché piangesse. Non mi commosse. I grandi non mi commuovevano. Mi commuoveva il nostro cane morente che cercava invano l'aria con il muso malato. Mi sembrò, anzi, che non fosse più mia madre. Era la figlia del nonno. E ciò me la rese così lontana nella sua emozione inspiegabile. Non eravamo noi, mia sorella e io, l'unica meta dei suoi sentimenti, così lontana da non potere più essere temuta. Inoltre, non si deve far mostra dei propri sentimenti. Chi lo fa sicuramente recita. L'ultima volta che vidi mio padre avevo 12 anni. Lui e mia madre stavano divorziando e lui era venuto a trovarci per qualche giorno a Torre Pellice, dove vivevamo da 2 anni con la nonna. Ci salutammo nel vicolo ai Dagotti, dove è la casa dei miei nonni. Forse stavo andando a scuola. Ero sola, probabilmente mia sorella mi aveva preceduta. Al momento in cui stavo per svoltare nella strada principale, mio padre, che era rimasto fermo all'angolo della stradina, mi rincorse e, raggiuntami, mi sollevò nelle braccia e mi baciò piangendo sulla bocca. Questo gesto, così estraneo alla consuetudine dei nostri rapporti, mi sbalordì e ripugnò. Quando mi posò per terra, corsi via senza salutarlo e lo lasciai là, nella stradina, alto, nel suo cappotto scuro. Mentre correndo svoltavo nello stradone e con la mano mi asciugavo la bocca, continuavo a chiedermi: ma che cosa gli è saltato in mente? E insieme mi chiedevo: chi è lui? Mi stupivo però in senso opposto a come mi ero stupita per il pianto di mia madre. Questo me l'aveva rivelata estranea. Invece il gesto improvviso, insolito, non recitato di mio padre s'era teso ad aggrappare qualcosa in me, qualche cosa che non c'era, che era assente. Questa assenza la sentii immediatamente come una colpa. Ben prima di sapere che lo avevo lasciato nella stradina ai Dagotti per l'ultima volta, alto, nel suo cappotto scuro, ritto davanti ai tedeschi che lo fucilarono a Riga nell'ottobre o novembre del 1941. Una colpa condivisa tra lui e me, che entrambi non avevamo potuto conoscerci. Non so quasi nulla di lui. Non ne ho che sparsi ricordi infantili. Ignoro come mia madre e lui si incontrarono. A lungo non ho saputo perché si sposarono. Non so la data della sua morte. Quella della sua nascita l'ho ricavata dai documenti del divorzio tra lui e mia madre. Prima di partire l'ultima volta mi aveva regalato un orologio grosso, con una forma, un quadrangolo irregolare e delle cifre romane che non mi piacevano affatto. Anni addietro ci aveva regalato una bambola alta come me, che non stava in nessun lettino per bambole. Regalava una bambola per volta, non diceva neppure a chi di noi due. Dall'esposizione di Parigi aveva portato un bambolotto negro di cui mia sorella si era immediatamente impadronita, però quando l'aveva comperato mio padre certamente non sapeva a chi destinarlo. Durante una delle visite legalmente combinate che ci aveva fatto durante gli ultimi mesi della nostra permanenza in Lettonia, ci aveva regalato, poverino, degli immensi conigli bianchi di peluche, animali orribili, più grandi del vero, coi quali non si poteva giocare. Non mi mandò mai il mio servizietto da tè per bambole che continuavo a chiedergli in tutte le lettere che gli scrivevo da Torre Pellice. Il servizietto di porcellana, regalo di mia madre, era rimasto a casa nostra insieme ai giochi, ai miei libri, alle mie bambole. Avevamo dovuto venire via senza portare nulla con noi, fingendo di andare a scuola un mattino. Invece avevamo raggiunto la mamma nella casa dove abitava dopo la separazione. Ogni tanto sogno ancora di dover fare i bagagli e di non riuscire a prendere quello che mi occorre. Sogno generalmente di dover fuggire coi miei figli piccoli e di dover scegliere tra i loro vestiti quelli da portare via. Anche le coperte devo raccogliere in fretta prima dell'imminente catastrofe. Portai l'orologio di mio padre a lungo. E quando si ruppe, non mi decisi se non dopo parecchi anni a sostituirlo con un altro piccolissimo. Lo conservai rotto, enorme, ingombrante, tra le mie cianfrusaglie. Poi lo buttai via durante un trasloco. Di mio padre non ho conservato null'altro, né una foto, né una lettera. Neppure l'ultima lettera che ci scrisse nel 41, subito dopo che i tedeschi avevano occupato Riga. Non riesco assolutamente a ricordare che cosa sia capitato a quella lettera, che per alcuni anni rimase tra le mie carte, strappata, spiegazzata, ma non so da chi. La nonna materna odiava nostro padre ed era certamente capace di far scomparire qualsiasi traccia di lui, ma non è affatto escluso che non sia stata io a buttare via la lettera in una delle mie operazioni di pulizia. Di quella lettera, scritta nella sua illeggibile scrittura, mi è rimasto in mente soltanto una frase che egli aveva sottolineato: perché ricordatevi che anche voi siete ebrei. Frase che considerai senza significato. Come non riuscii affatto a comprendere la ragione per cui ci chiedeva, avevamo 16 anni io e 15 mia sorella, di farlo venire via con qualsiasi mezzo dalla Lettonia. Ma e come avremmo mai potuto riuscirci? Non avevo avuto familiarità con lui, era l'unico adulto che non solo non incarnava regole, ma anzi le negava tutte. Viveva come un estraneo nella grande, chiara e curata casa di nostra madre. Era altissimo, bruno, stempiato. Quando io nacqui aveva già quasi 40 anni e probabilmente era molto bello. Sembrava un principe arabo, diceva la cuoca. La nostra giornata non coincideva con la sua. Qualche volta lo incontravo mentre uscivo al mattino per andare a scuola nelle strade ancora buie, illuminate dai lampioni. Lui rientrava, la sciarpa di seta bianca intorno al collo. Al mio ritorno a Luna lo trovavo che si aggirava per le stanze in pantofole e vestaglia e un terribile odore di uomo intorno a lui. Oppure leggeva, sprofondato in poltrona, i suoi giornali russi, fumando grossi sigari dalla fascetta dorata che per gioco infilavo sul dito come un anello. A pranzo mangiava piedini di vitello in gelatina, beveva il tè in un lungo bicchiere cerchiato da un anello con manico. Un pomeriggio ci portò lui, invece della mamma, al balletto e si addormentò in fondo al palco. Russava così forte che lo si sentiva fin nella platea. Alcune volte ci accompagnò a diverse gare sportive. Si interessava di sport ed era stato allenatore sportivo in Unione Sovietica. Raccontava: nel 1918 mi trovavo in una barca sulla duna e dal ponte mi sparavano addosso. Per questo aveva dovuto fuggire in Unione Sovietica. Ricordo che imitava i fischi fin fin degli spari mentre riferiva l'episodio. Una volta andammo con lui a una gara di podismo. C'era un piccolo uomo bruno, tutto sudato, che camminava molto in fretta con le sue gambe storte intorno a una pista circolare. Gesticolava parlando una lingua incomprensibile e quando gli davano acqua da un bicchiere la sorseggiava e poi sputava per terra. Io mi sentivo imbarazzata perché era italiano e anche mia madre era italiana come quel buffo e maleducato Ometto. Mio padre parlava male degli italiani, soprattutto di uno di loro, un certo Mussolini, che per un po' credetti anche lui un podista. Parlava male anche dei sovietici e dei tedeschi. Cercava di insegnarmi uno strambo tedesco, Yiddish, e si divertiva molto quando lo pronunciavo come lui. La mamma si arrabbiava e diceva che lui ce l'aveva su coi tedeschi perché non era riuscito a finire l'università in Germania. I suoi amici erano però quasi tutti tedeschi. «Tedeschi da niente», diceva la mamma. Uno era medico del carcere e sua moglie era venuta un pomeriggio a protestare a casa nostra perché Herr Gersoni persuadeva il marito a stare fuori con lui tutta la notte. Mio padre si divertiva a dare il cattivo esempio, ma quell'altro, tedesco da niente, perché ci stava? Nostro padre faceva anche altre cose che i padri non fanno e non dovrebbero fare. Una volta comperò un autobus. Ci portò a vederlo nella rimessa dove era parcheggiato. L'autobus aveva i sedili squarciati e io mi chiesi subito, ma non osai domandare conferma, se ci sarebbe toccato andare in giro su quell'autobus invece che sulla Diatto. Già avevo dovuto viaggiare in un sidecar che traballava sul secciato accanto alla moto. Ma per fortuna l'autobus era soltanto un affare di mio padre. Lo era anche la Diatto, anzi per un periodo addirittura due Diatto, che continuava ad aspettare un compratore. Gli affari di mio padre erano quelle stramberie, come del resto anche i suoi interessi nelle gare sportive, di cui lui si occupava invece di occuparsi, diceva la mamma, del suo ufficio. Era rappresentante della Michelin per i paesi baltici. Di Riga sogno esclusivamente la strada in cui si trovava il suo ufficio. La sogno vuota, con un selciato molto sporgente e bordata di case alte che si inclinano tutte insieme verso la strada come le cime di un viale di pioppi in un vento tempestoso. È un sogno d'angoscia in cui il selciato e le case sono neri. Io corro verso l'ufficio di mio padre e voglio trovarlo, ma trovo seduti su una sedia uno dopo l'altro in un seguito di rapidissime trasmutazioni uomini sconosciuti, con facce vecchie, occhi chiusi. Mi sveglio piangendo. Mentre ritorniamo a casa dopo la visita all'autobus, nostro padre e nostra madre litigano. Non vanno d'accordo. La colpa è di lui che grida forte, ma non si corregge. Non ci mette il minimo di buona volontà e la mamma deve lavorare molto per pagare tutti i conti. Lui va due volte all'anno a Parigi a divertirsi. Non vanno d'accordo, non sono mai andati d'accordo. Mio padre si chiamava Samuel. Quando trovo una vecchia cartolina scritta da mia madre in cui racconta ai suoi genitori che io sto seduta sul seggiolone e li guardo, lei e Sammy, mentre pranzano, mi sembra che essa stia raccontando di altri. Il loro disaccordo è un fatto quotidiano, di cui mia sorella Zizi e io parliamo ogni tanto. Come si può andare d'accordo con uno che va due volte all'anno a Parigi a divertirsi, che dorme di giorno, non paga i conti e che grida? La cuoca dice alla cameriera che lui ha picchiato la mamma, ma questo non lo credo. Poi però, quando lui incomincia a gridare, temo sempre che avvenga. La mamma è molto coraggiosa, gli tiene testa quando lui grida. D'altronde tiene testa a tutti, persino ai doganieri, mentre frugano nelle nostre valigie. Lei li insulta. Una mattina di primavera dobbiamo cambiare casa. Ogni tanto traslochiamo. La prima casa, che ricordo, dava sulla duna e dalle finestre vedevamo passare le navi. Poi siamo vissuti di là dal fiume e tra sala da pranzo e lo studio stavano appesi nel vano della porta gli attrezzi da ginnastica. Poi in un'altra casa dove mi permettevano di sistemare i mobili delle mie bambole in fondo a un piccolo corridoio cieco. Erano sempre appartamenti molto grandi e ogni stanza aveva un odore differente. Quella mattina di primavera andiamo con nostro padre e nostra madre in macchina a Binnenhof, la proprietà del nonno paterno, su un'isola della duna. Oltre alla fabbrica c'è anche la casa dove sono vissuti i nonni prima di venire a Riga e nostro padre con la sua prima moglie. Nostro padre ha proposto di andare ad abitare a Binnenhof e la mamma è contenta, le piace l'idea. Non ricordo nulla del viaggio, se non che mio padre e mia madre vanno d'accordo. È una giornata di sole. E la casa è tutta al sole quando arriviamo. Davanti alla casa c'è un grande lilà bianco che, racconta nostro padre, durante la guerra era stato spaccato da una granata e aveva continuato a fiorire dai due tronchi spuntati dallo squarcio. Mio padre mi fa toccare il tronco. Poi andiamo nella casa, l'appartamento è al primo piano. Le finestre sono aperte, il sole illumina le stanze. I mobili sono vecchi, chiari e fodere bianche coprono le poltrone. I pavimenti sono di legno biondo, incerati. Ci sono molte stanze. Mio padre e mia madre passano da una stanza all'altra. Non sento che cosa si dicono, ma so che vanno d'accordo. Guardo dalla finestra nel cortile erboso. Ho fame, vorrei mangiare un panino. Faccio il mio gioco degli odori. Cammino a occhi chiusi, distinguendo gli odori delle diverse stanze che attraverso. Le stanze di Binnenhof sanno di sole, di fodere e naturalmente di miele. Biene in tedesco è l'ape. Non sanno di persone. Non andammo ad abitare a Binnenhof e nostro padre e nostra madre divorziarono. Non credo che sperassi di andare ad abitare a Binnenhof. Non conoscevo il futuro, chiusa com'ero nel cerchio illuminato del mio palcoscenico. In questo cerchio stava quotidianamente il divorzio dei miei genitori. Stava con le altre paure. Quel mattino a Binnenhof il cerchio di luce si allargò soltanto. Si allargò talmente che non ne vidi più i confini. Al di là delle pareti chiare e fuori dalle finestre aperte, al di là del cortile erboso e del fiume che si attraversava su un ponte di legno. Patrizia Zappa-Mulas ha letto I padri lontani di Marina Jarr. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.